contatto, prendo contatto, intanto mi odio di matto. E sai qual è il fatto? È che ho già strappato un contratto. Lavoro insicuro, futuro insicuro, vivo con le spalle al muro. Questo mese paga bassa sicuro, vaffanculo. A tutto a te che ascolti le mie parole, le ho fai solo per montarci sopra una discussione. Mi vedi in giro? No. Mi senti in giro? So. Mi tieni a tiro? Però non mi colpisci. Wow. Tienimi a distanza, distanza, distanza. Non c'è più speranza, speranza, speranza. Tienimi a distanza, distanza, distanza. Non c'è più speranza, speranza, speranza. Ora la città dorme, io qua mi metto in forze, per me lento abbandono, Tiziano chiede perdono, fibra si gode gli applausi, e io ancora qui tra gli scarsi. Bisognerebbe fermarsi, dentro uno specchio guardarsi, il mio lo frantumo perché qualcuno continua a fissarmi. Abbassa gli occhi, sì, e gira al largo, oh, non c'è più scampo, qua sono un bastardo e si sa. Tienimi a distanza, distanza, distanza. Non c'è più speranza, speranza, speranza. Tienimi a distanza, distanza, distanza. Non c'è più speranza, speranza, speranza. Trieste è spenta, la colpa di chi la frequenta. La scena è morta, la colpa di chi la sepolta. Io la riesumo tipo zombie, troppe mezze tacche, mille stencil, ma zero bombing. Sono nuovo, sai chi sono? Sono il tuono che esce dal cono. Tu intanto provi a capirla, te la spiego, facile dirla. Generazione all-in, cervello spento, muto in silenzio, rabbia arriva tutto dentro. Tienimi a distanza, distanza, distanza. Non c'è più speranza, speranza, speranza. Tienimi a distanza, distanza, distanza. Non c'è più speranza, speranza, speranza.